Ci sono 8 e 9 minuti, parte leggermente in ritardo la rubrica in mostra per colpa mia, perché non trovavo gli occhiali da lettura. È l'età. E quindi bisogna portare un'informazione, una diffusione il più possibile attinente per quanto riguarda Art City e la 12ª edizione, che avrà luogo dall'1 al 4 febbraio 2024, va a catalizzare ancora una volta l'attenzione del pubblico appassionato dell'universo artistico, promossa da Comune di Bologna, Bologna Fiere, diretta per il 7° anno da Lorenzo Balbi, direttore del Mambo, Museo di Arte Moderna di Bologna. La settimana dell'arte, l'Art Week, accompagnerà come da tradizione lo svolgimento di Arte Fiera, che quest'anno a sua volta giunge alla 50ª edizione. Allora, è un incontro con la città, è un incontro ovviamente non solamente con i bolognesi, ma con tutte e con tutti. È uno storico traguardo, un settore tra cui Bologna è più longeva città d'Italia, che Art City ha scelto di omaggiare con l'artista moderno più importante nato e vissuto nella città felsinia, che è Giorgio Morandi, di cui io sono grande appassionato, perché è il 60° anniversario della morte, proponendo un programma comunque a lui ispirato. Ci sono 5 progetti speciali, uno lo avremo come co-protagonista per rappresentare questa diretta vicina ad Art City, linee generali con Lorenzo Balbi, prima un po' di musica. Allora, questo brano di Jill Scott Heron è Peace Go With You Brother, è un brano bellissimo, ve lo propongo, rientriamo in diretta e inizieremo i nostri motivi di conversazione per presentare Art City con Lorenzo Balbi. A tra poco. Common eyes all see the same. Now, more than ever, all the family must be together. Peace go with your brother. Though I ain't so proud anymore. Peace go with your brother. Recognition don't come cheap anymore. You my lawyer, you my doctor, yeah, but somehow you forgot about me. And now when I see you, all I can say is peace. Peace go with your brother. Matter much now, just what I say. Peace go with your brother. You the kind of man who think he got to have his own way. Eccoci qua con Lorenzo Balbi. 2024 è un inizio, quindi va da sé che ci esercitiamo anche per poi portare i contenuti in conferenza stampa. È sempre un'ottima occasione trasformarsi da direttore artistico a redattore per Radio Città Fujiko. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno William. Sì, warm up, dai, consueto warm up con Radio Città Fujiko prima della conferenza stampa. Come cominciamo questa nuova edizione? Edizione celebrativa, direi, quest'anno 2024. 2004, la 12ª edizione di Art City, la 7ª che ho l'onore di dirigere, e quindi insomma sono numeri che dimostrano anche un po' l'evoluzione, se vogliamo, di questo progetto, che è diventato veramente un modello anche per le altre città in Italia e non solo. Quest'anno, dicevo, edizione celebrativa perché sono due importanti anniversari: il primo certamente il 50esimo anniversario di Arte Fiera, è 50esimo anno, la fiera più longeva d'Italia, una delle fiere più longeve del mondo, e quest'anno ci apprestiamo a celebrarla degnamente, anche un orgoglio un po' cittadino per tutto il sistema dell'arte in Italia. E sull'onda lunga dei 50 anni di Arte Fiera, quest'anno abbiamo deciso di dedicare Art City a Giorgio Morandi, in occasione del 60esimo anniversario della scomparsa, e celebrando quello che per molti è il primo artista contemporaneo. Quindi quale occasione migliore di Art City per celebrare sicuramente l'artista più importante nella storia della città, uno dei protagonisti dell'arte del Novecento in Italia e in tutto il mondo, e farlo attraverso i linguaggi del contemporaneo. Quindi, come al solito, il nostro approccio anche come Museo Morandi non è tanto quello, sì, di far vedere le opere di Morandi, farle conoscere, ma soprattutto far vedere come l'insegnamento di Morandi sia ancora vivo e foriero di grande ispirazione per le nuove generazioni di artisti. Giorgio Morandi, artista che ha dato il via ed è stato protagonista, come tuttora lo è e lo sarà, per l'ispirazione e una idea di quello che può essere un dialogo con giovani artisti, e anche grazie a questa possibilità il capire ed entrare all'interno di questa espressione artistica e vederla ai giorni nostri. In mostra ci saranno 5 special project che esplorano, reinterpretano il lavoro di Morandi attraverso differenti linguaggi: quello della fotografia, che sarà rappresentato dalle opere di Mary Ellen Bertley al Museo Morandi con il lavoro Morandi's Book, e dagli scatti di Joel Meyerowitz, che saranno esposti all'interno delle collezioni comunali d'arte, Morandi Object, le fotografie di Joel Mervitz. Il video sarà espresso dall'artista Tacita Dean con Still Life, The Studio of Giorgio Morandi, all'interno del nuovo spazio Pietro, quello della performance che verrà affidato a Virgilio Sieni, che proporrà la nuova produzione Elegia Luminosa in scena nella platea del Teatro Comunale di Bologna, oltre al ciclo di lezioni sul gesto intitolato Atelier Morandi Palestra Auratica. Infine quello del suono, che avrà come protagonista l'installazione sonora live Saturnine Orbit di Mark Vernon, presentata da Xing per la Casa Museo Morandi e per i pienili del Camparo a Grezzana Morandi. Ad affiancare tutto ciò, i special project e il focus espositivo Morandi metafisico tra disegni, una storia, che a Casa Morandi presenterà 3 disegni appartenenti alla breve fase metafisica dell'artista. Breve ma importantissima, ha un aspetto legato alla metafisica ed è probabilmente la parte di Morandi che mi attira di più. Comunque certamente un artista che, come ho detto, molto avanti, e che nell'interpretazione e allo sviluppo di uno studio che ci porta nel contemporaneo e oltre. Ci saranno ovviamente altre mostre, Bologna si trasforma, come ben sapete, in questi giorni, avremo modo anche di trovare un focus incentrato su un'esposizione, ne abbiamo parlato magari e ne parleremo ovviamente qui sul 103.1 nella seconda parte della rubrica in mostra. Intanto ci addentriamo brevemente, così in sintesi, nel programma ricchissimo di Art City 2024.

nasce a Bologna nel 1490 circa, pensate, la prima, almeno la prima di cui si ha notizia, scultrice, intagliatrice di gemme preziose italiana del Rinascimento, è considerata la prima scultrice, come ho detto, di cui si abbia conoscenza, prima scultrice in Europa, incerti sia la data, ma anche il luogo di nascita, presumibilmente Bologna, e tra il 1525 e il 1526 eseguì dei lavori nel cantiere della Basilica di San Petronio di Bologna, insieme a lei ovviamente con artisti famosi. E l'eccezionale presenza di questa donna, che metteva le tenere bianchissime mani nelle cose meccaniche fra la ruvidezza dei marmi e l'asprezza del ferro, destò la stupita ammirazione, tanto da riportare queste parole dal Vasari, che incluse la sua biografia tra le vite di artisti. Elogiò anche il suo virtuosismo come intagliatrice e anche per ottenere le commissioni per le opere di grandi dimensioni in marmo, grazie alla fama procuratele dai lavori ad intaglio su superficie piccolissime. E a tra poco ne parleremo, quindi, perché una delle mostre selezionate nell'immenso Mare Magnum panorama di Art City. A tra poco. Cuatro. Morandi, e continuerò a farlo, perché resta uno nel Dream Team della rubrica In Mostra. Ho messo The Bottle di Gil Scott Heron, di Gil Scott Heron. There's people showing up in the bottle. Isn't that a good example? Quindi da domani, ma sarà in mostra fino al 26 maggio 2024, l'inaugurazione è oggi alle ore 18, quindi sono ben contento di dare anche questa anticipazione. Ne ho già parlato di Properzia De Rossi, Linda Benglis e Properzia De Rossi, scultrici di capriccioso ed estrissimo ingegno. La curatela è di Lorenzo Balbi. Allora, alcune note biografiche molto così enciclopediche ve le ho già date, per quanto riguarda questa scultrice, una delle prime, la prima di cui si abbia notizia, quindi talento incredibile bolognese, anche se incerta per così dire la nascita, del resto siamo nel 1490. Artisti con i quali lavorò vicino: Alfonso Lombardi, Amico Aspertini, e come ho già detto, parole che Vasari ha portato a proposito di Properzia De Rossi, veramente molto importanti. E la sapete quella della formella nella Basilica di San Petronio. Adesso ve la racconto. Oltretutto continua a basare con De Rossi che sostiene l'immane sforzo di tecnica scultorea animata dal desiderio di fama, dalla volontà di estirpare dall'universo maschile questo vanto, no, di superiorità, e avrebbe chiesto ai fabbricieri della Basilica una parte di quel lavoro, eh? Il Vasari inoltre sottolinea il manifestarsi dell'indole anche irriverente della donna e della formella marmorea da lei realizzata. Sapete cosa ha raffigurato? È un episodio biblico di Giuseppe e la moglie di Putifarre. L'opera racconta di un amore adulterino e sarebbe, secondo questo grandissimo critico d'arte, il manifesto della fortissima passione che la scultrice nutre nei confronti del suo amante. È un amore purtroppo che non prende a pieno in questa passione forte, e lei come fa? Lo sfoga nell'arte, portando appunto questa storia d'amore proibita ai tempi, pensate? Uomini che saranno l'unico limite per quanto riguarda il grandissimo talento di Properzia De Rossi. Ma ora parliamo di questo dialogo che è con Linda Benglis, a 5 secoli di distanza dall'artista bolognese. È un'opera che fin dai suoi esordi è una rivoluzione che va a sfidare i limiti sociali e di pari passo quelli della materia attraverso il genio artistico. Linda Benglis è americana di origine greca, inizia la sua carriera negli anni 60 opponendosi con opere estrose e colorate, dalla geometria al dogmatismo, al movimento artistico del minimalismo. Insomma, come vi ho detto, Linda Benglis e Properzia De Rossi, scultrici di capriccioso ed estrissimo ingegno, è in mostra con l'inaugurazione questa sera alle ore 18, Museo d'Arte Moderna, nella Project Room, e lo sarà fino al 26 maggio 2024. Ma diamo un piccolo approfondimento grazie al curatore e direttore del Mambo, Lorenzo Balbi. Quello che proponiamo oggi è anche un dialogo impossibile tra due artiste donne, due artiste che sono separate nella storia da oltre 5 secoli. Stiamo parlando di Properzia De Rossi, che è stata la prima donna a utilizzare la scultura testimoniata da una fonte storico-artistica bolognese, nata nel 1490 più o meno, è morta nel 1530, unica donna ad avere una biografia nel celebre libro delle vite del Vasari, possiamo dire il primo libro di storia dell'arte, e le opere di Properzia De Rossi, appunto bolognese, di cui si hanno pochissime anche opere testimonianti, quindi siamo contenti di avere anche la possibilità di presentare al pubblico un corpus di opere veramente unico e molto particolare, viene messo a dialogo con le opere come quella alla mia spalle di Linda Benglis, scultrice americana vivente, vive a Santa Fe, ha più di 80 anni e è stata una delle donne artiste a utilizzare i materiali nella scultura più come manifesto proprio del suo essere donna, della sua femminilità. Quindi un dialogo impossibile, ma a mio parere molto calzante, tra due donne separate appunto da tanti anni, ma con una convergenza nell'utilizzo dei materiali e nel parlare attraverso le proprie opere con la scultura molto simile. Per quanto riguarda le opere presenti, ce n'è qualcuna in particolare da diciamo segnalare? Assolutamente sì, per quanto riguarda Properzia De Rossi abbiamo una riproduzione 3D fatta con una tecnologia molto avanzata della celebre formella di Giuseppe, la moglie di Putifarri, che è considerato il capolavoro di quest'artista bolognese, murato nella sacrestia di San Petronio, inaccessibile al pubblico, quindi anche in questo modo è fruibile e lo sarà anche in seguito alla mostra con questa riproduzione in 3D molto fedele, e lo stemma della famiglia Grassi, stemma araldico in filigrana d'argento, presente nelle collezioni del Museo Civico Medievale di Bologna, che viene presentato qui al pubblico, in cui Properzia intervenne con la scolpendo 12 noccioli di albicocca o pesca che sono incastonati in questo semaradico. Queste opere, insieme a una preziosissima copia delle Vite di Vasari del 1568, quindi la seconda edizione giuntina che ci è stata prestata dalla biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna, sono messi in dialogo con un corpus presentato per la prima volta in Italia di marmi molto importanti e recenti nella produzione di Linda Bendis. Marmi su cui lei interviene con questa scultura, marmi colorati, quindi sfidando anche la tradizione scultorea classica del marmo bianco utilizzando marmi policromi, e interviene con forme tipiche anche della scultura classica, quindi rifacendosi a panneggi, movimenti e torsi che molto hanno della fisicità del modo di intendere la scultura di Linda Bendis. La mostra apre al pubblico domani sera, quindi il 25 di gennaio, sarà visibile fino all'inizio di maggio nella Project Room del Mambo, che è lo spazio in cui tendiamo, vogliamo portare avanti una programmazione soprattutto legata a un'analisi del territorio. Quindi partiamo sempre da un personaggio, in questo caso proprio Perse Rossi, o un evento, un particolare luogo che hanno plasmato l'identità di questo territorio nei secoli. Qui andiamo indietro fino al 1400-1500, sempre però rilegge con l'occhio del contemporaneo o con dei dialoghi appunto con i linguaggi della contemporaneità. Grazie a voi. Idea, mi permetto di dire, bellissima. Clifford Jordan, abbiamo concluso la playlist dedicata ad Art City. Sono le 8:46 minuti, sta terminando la nostra prima colazione in diretta, è arrivato anche il sereno con un raggio di sole che vedo alle mie spalle dalla finestra di conduzione in diretta Breakfast Club Radio Città Fujiko. E visto che abbiamo parlato di questo amore proibito che prende sfogo nell'arte da Properzio De Rossi, che ha il coraggio di riportare una storia adulterina, raccontata, un episodio biblico di Giuseppe con la moglie di Putifarre, è rappresentata su questa formella e nei percorsi in mostra che troveremo ovviamente legati ad Art City, e con quella che è l'esposizione nella Project Room al Mambo. Listen out here, I'm kissing my love. I hear a princess today with a million miles. Con un dialogo a distanza e nei secoli, Linda Bendis e Properzio De Rossi, scultrici di capriccioso e destrissimo ingegno. E trovo che questa modalità, questa linea sia assolutamente molto comunicativa per non solo gli addetti ai lavori, ai curiosi, ma anche per avvicinare sempre con una continuità nel tempo con il filo conduttore dell'arte e della cultura. Art City, arrivata, come vi ho detto, arrivata alla settima edizione, che è portata da Lorenzo Balbi, però è dodicesima edizione, adesso guardo bene. Dodicesima! Sing My Love. Loro sono i Rad, si fanno da sigla di conclusione a breve. Poi avremo l'Edipeo enciclopedico, dopodiché Liberi Dentro, seguirà la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Oggi la musica e il rock di Angela Zocco e Andrea Gozza con The Rock and Roll Radio. Fino alle 12.30 la mattinata di Radio Città Fujiko per giovedì 25 gennaio. Domani andremo in scena, appuntamento con l'oratorio Laboratorio San Filippo Neri. Intanto ringrazio per l'ultima parte di format odierno, ringrazio Viola Balugani che ha presenziato la conferenza stampa di presentazione per quanto riguarda la mostra di cui vi ho appena parlato. Ringrazio voi per l'attenzione, ascoltatrici e ascoltatori, super mattiniere e mattinieri di Radio Città Fujiko. La prima colazione in diretta ritorna puntuale domattina alle ore 7 e con un caloroso abbraccio mi congedo a voi augurandovi un buon ascolto e un buon giovedì dal vostro William Piana. Ciao a tutte, ciao a tutti.